cenni storici introduttivi ai libri del Nuovo Testamento, battuto a macchina al mare nel 1968. Il Nuovo Testamento, quale noi lo possediamo, non è stato formato di getto durante il secolo apostolico. La sua formazione è stata lenta e graduale ed ha tutta una storia. Fin dal secondo secolo, la Chiesa, in questo lavoro di scelta e di selezione mediante i suoi rappresentanti più autorevoli e competenti, i quali hanno proceduto con la massima cautela e con savio discernimento, ha riconosciuto il lavoro incomparabile dei quattro Evangeli, eliminando energicamente tutte le contraffazioni. Accanto ad essi ha riunite le principali epistole di Paolo, Pietro e Giovanni. Gli originali dei libri che compongono il Nuovo Testamento sono andati tutti perduti. Né di Paolo né di alcun altro scrittore apostolico ci è giunta nemmeno una riga autografa. La cosa si spiega facilmente sia per il deterioramento inevitabile del materiale scrittorio, sia per effetto delle persecuzioni durante le quali molti libri cristiani furono distrutti. Il materiale originario su cui vennero scritti i libri del Nuovo Testamento fu con ogni probabilità il papiro. Lo si prepara con le fibre intrecciate del fusto della pianta egiziana di egual nome. Vi si scriveva con una penna di canna, calamos, e con inchiostro nero, 2 Giovanni 12 e 3 Giovanni 13. Tuttavia, il papiro era un materiale di scarsa durata, per cui a partire dal III secolo esso venne sostituito dalla pergamena, la cui origine è naturalmente molto più antica. Nel passo 2 Timoteo 4:13 si parla di libri, Bibbia, probabilmente su papiro, e di pergamene, membranas. La pergamena era preparata con pelli di animali fatte seccare. Se ne formavano quaderni, la cui riunione costituiva il codice. I più antichi manoscritti del Nuovo Testamento sono scritti su pergamena. Talvolta avveniva che, essendo la pergamena assai costosa, il possessore di un codice raschiava via lo scritto primitivo e lo sostituiva con un altro testo. Sono i cosiddetti palinsesti. La carta venne importata in Europa verso l'VIII secolo, il cui luogo d'origine si ritiene fosse l'Aposto. Rispetto alla loro scrittura, i manoscritti del Nuovo Testamento si dividono in onciali e maiuscoli, corsivi o minuscoli. I manoscritti onciali sono i più antichi e sono scritti con lettere onciali, alte un'oncia o 25 mm. In ciascuna di queste la scrittura procede con linee di varia lunghezza, senza distinzione di parole, senza accentuazione né punteggiatura, ma con frequenti abbreviazioni. A partire dal IX secolo abbiamo manoscritti in scrittura corsiva. Le lettere sono più piccole, le parole sono distinte, si aggiungono accenti e spiriti, aumentano le abbreviazioni. Una categoria speciale di manoscritti è costituita dai lezionari, destinati alla lettura pubblica nelle. I più antichi manoscritti, gli onciali della Bibbia più famosi sono 4. Il Sinaitico fu battezzato con la prima lettera dell'alfabeto ebraico e si chiama quindi il codice Aleph. Fu scoperto da Tischendorf 4 febbraio 1859 nel convento di Santa Caterina sul Monte Sinai. L'Antico Testamento è quasi completo, il Nuovo Testamento è completo. Il codice Vaticano OBE, ritenuto il più antico di tutti i manoscritti del... Siccome l'inchiostro ne era sbiadito, venne ricalcato verso il 1000 con l'aggiunta degli accenti. E l'Alessandrino, o codice A, è stato scritto nel V secolo in Egitto. Contiene la Bibbia intera. Il codice di Efrem, o codice C, è l'ultimo dei grandi codici che da principio contenevano l'Antico Testamento e Nuovo Testamento UE, un palinsesto. Si trova nella Biblioteca Nazionale di Parigi. E del V secolo. Tutti gli altri manoscritti che possediamo non ci danno più la Bibbia intera, ma soltanto delle parti dell'Antico e del Nuovo Testamento. Sono tutti codici di gran valore, alcuni di un valore inestimabile. Per essi il codice Beza o codice D, conservato in Inghilterra, e del VI secolo. Autore, Matteo detto Levi, era figlio di Alfeo ed esercitava l'ufficio di gabelliere o esattore di imposte nella città di Capernaum per conto dei romani che allora dominavano il paese. Chiamato da Gesù a seguirlo mentre sedeva al tavolo del suo lavoro, abbandonò subito il suo ufficio e seguì il maestro. Matt 9:9-13, Mar 2:13-17, Luca 5:27-32, che lo fece suo apostolo. Destinatari i giudei. Infatti, le sue numerose citazioni tratte dall'Antico Testamento, i riferimenti alla Santa Città e al Regno, la presentazione di Cristo come figliolo di Davide e di Abramo, potevano essere apprezzati da una scopo di mostrare ai giudei, per mezzo dell'autorità dell'Antico Testamento, riporta 29 citazioni, che Gesù è il Messia promesso dai profeti e che, come figliolo di Davide, era il legittimo erede al trono di Israele. Tema presentare Gesù come re riportando nel suo Evangelo la parola regno 55 volte. Dei quattro Evangeli, solo Matteo si riferisce alla Chiesa. Data e luogo si pensa che sia stato scritto in Palestina fra il 70 e il 90. Varie l'Evangelo di Matteo è l'unico libro del Nuovo Testamento scritto in aramaico, fusioni dell'antica lingua classica dei cananei con i vari idiomi aramei. Poi si pensa che egli stesso lo abbia tradotto in greco o qualche altro credente. I fatti riportati nell'Evangelo sono intercalati ai discorsi senza ordine cronologico, perché l'intenzione dell'autore era di fare una narrazione didattica. L'Evangelo di Matteo è uno dei tre Evangeli sinottici con Marco e Luca. Infatti sono così simili l'uno all'altro nelle loro linee generali e spesso anche nei loro particolari da potersi disporre a studiare parallelamente abbracciandovi in un medesimo colpo d'occhio. Autore il secondo evangelista è ricordato negli Atti degli Apostoli col nome di Giovanni detto Marco, Atti mezzogiorno e 12:25, 15:37, Giovanni era il nome ebraico e Marco quello romano. Altre volte chiamato solo Giovanni, Atti 13, 5 oppure semplicemente Marco, Atti 15:39. Confronta colpo d'occhio. Era figlio di una certa Maria, la cui casa in Gerusalemme era luogo di riunione per i discepoli di, essendo cugino di Barnaba, colpo d'occhio. 4:10. È probabile che fosse in Levita, Atti 4:36. Il linguaggio di un accento circonflesso Pietro 5:13 può significare che era un convertito di Pietro. Destinatari. I romani ciò è reso evidente dal fatto che i termini latini quali centurione e. Inoltre Marco cerca di togliere ogni idea di vergogna alla morte sulla croce, concetto proprio della mentalità romana, presentando la crocifissione come l'espressione suprema della sofferenza di scopo presentare Gesù come il perfetto servitore, l'operaio ideale. Per questo l'Evangelo di Marco presenta la straordinaria attività di Gesù Cristo. Solo l'Evangelo di Marco ci fa notare che Gesù era falegname. Da notare anche che Marco parla della compassione del perfetto servitore di Dio. La sua compassione per il lebbroso 1:41 non viene ricordata da Matteo e da Luca quando questi narrano tale miracolo. Marco solo ci dice che Gesù guardando il giovane ricco l'amò. Vari il Vangelo di Marco è il più antico e più breve dei sinottici. Infatti, di 1068 versetti di Matteo, circa 500 contengono in maniera lievemente condensata la sostanza di 600, mentre dei 1159 versetti di Luca, circa 320 trovano una. Questo esistente di tanto materiale di Marco negli Evangeli di Matteo e Luca viene spiegata ai nostri giorni con l'ipotesi che l'Evangelo di Marco, o qualcosa assai simile ad essa, abbia costituito la parte principale a cui attinsero gli altri due Evangeli. A differenza di Matteo, Marco ha ben poche citazioni dell'Antico Testamento. Autore poco si conosce di Luca. Sembra essere posto fra i gentili, cosa che se esatta ne fa l'unico scrittore gentile della Bibbia. Eusebio afferma che sia nativo di Antioca, il Ramse ritiene fosse di Filippi. Il suo nome viene ricordato solo tre volte nel Nuovo Testamento Colos 4:14. Dove viene chiamata medico di letto, Filemone 25, dove viene chiamato compagno d'opera, 2 gradi, Timoteo 4:11, dove si vede come egli fosse con Paolo nelle ore del vicino martirio. Destinatari, scrisse il suo Vangelo innanzitutto per l'istruzione di Teofilo, 2:3, poi in generale per il vasto mondo greco-romano. Infatti, essendo i greci amanti della bellezza, della cultura, dell'apogeo, dell'uomo, Luca dimostra nella sua genealogia che Gesù proviene dal primo uomo, Adamo. Scopo è quello di presentare il figlio dell'uomo fra gli uomini. Luca presenta la divinità incarnata. presenta Gesù nella sua infanzia, nella sua sofferenza, che lavora, piange e che cresce in statura, e va ricomponendo il suo Vangelo. Luca fece magistralmente opera da storico. Scelse le sue parti, cercò dei documenti, ordinò con cura i suoi materiali, 1:1-3. Risultato ne è che il suo Evangelo è più ricco di quello di Marco e di Matteo, contenendo oltre al materiale dei due evangelisti 18 parabole e miracoli che non si trovano negli altri due. L'opinione che Luca abbia scritto dettato da Paolo è errata, altrimenti non avrebbe detto «è parso». Data e luogo. L'anno in cui fu scritto è anteriore a quello del libro degli Atti 1:1 e si pensa sia il 63. Di chi lo pone verso il 80, per il luogo non si sa, ma di chi ha osato dire Roma. Autore Giovanni era figlio di un pescatore galileo che si chiamava Zebedeo, Matt, 4:21, e di Salomè, una delle donne che seguirono Gesù dalla Galilea a Gerusalemme e lo sovvennero coi loro. Probabilmente era cugino di Gesù, se Salomè era cugina di Maria, come può dedursi da Gioversetto. I suoi genitori erano agiati, il padre aveva degli operai, Marco 1:20. Egli aveva una casa propria, 19:27, la madre era una di quelle donne che servivano Gesù con le loro facoltà, Luca 8:3, le quali in seguito vennero per imbalsamarlo, Marco 16:1. Destinatari è probabile che Giovanni abbia scritto per tutti gli uomini. La parola mondo ritorna almeno 78 volte in questo Evangelo, il che ha un valore profondo. Molti fanno notare che Giovanni scrisse per la Chiesa che è composta di giudei e di gentili. Infatti, mentre gli altri evangelisti scrissero ciò che Gesù ha detto, Giovanni scrisse ciò che Gesù è. Inoltre, riporta la parola «io sono» per 7 volte riferendosi al Vecchio Testamento Esodo 3:13. Varia l'autenticità di questo Evangelo è stata seriamente messa in dubbio dai critici. Si noti che lo scrittore si nomina come il discepolo che Gesù amava per 4:13:23. Che questa espressione non si possa riferire a Pietro appare evidente da 21:20 e siccome Giacomo subì il martirio molto tempo prima che questo Evangelo fosse scritto, si crede che Giovanni sia. La parola chiave detta da Giovanni nel suo Evangelo è «credere» detta 98 volte. Mentre gli altri autori riportano solo l'ultima visita a Gerusalemme, Giovanni ne nomina 5. La prima Pasqua 12:1, la seconda Pasqua 5:1-47, data e luogo si pensa sia stato scritto 30 anni dopo gli Evangeli sinottici, cioè verso l'80-100, da nacque da una famiglia giudaica nella città di Tarso, nella pianura della Cilicia, che è una città a Shonta. Fu conosciuto per molti anni sotto il nome di Saulo da Tarso. Secondo la sua stessa affermazione era un fariseo, figlio di farisei, Atti 23:6. Parlava l'aramaico ebreo fra gli ebrei e durante la sua giovinezza imparò a fabbricare, e era della tribù di Beniamino, Filippesi 3:5. I beniaminiti furono conosciuti storicamente come combattenti, e anche Paolo mostrò con grande evidenza di possedere uno zelo ardente in tutti gli incarichi ricevuti, specialmente in quello di perseguitare la Chiesa, Galati 1:13. Ancora giovane, secondo quanto è scritto in Atti 22:3, si recò a Gerusalemme per studiare ai piedi del famoso rabbino Gamaliele I, rettore della scuola di Killel. Dalle sue stesse parole in Galate apprendiamo che Paolo si segnalava nel giudaismo più di molti della sua età fra i suoi connazionali, essendo estremamente zelante delle tradizioni dei suoi. Non soltanto era cresciuto in uno dei più importanti centri della cultura greca, ma mostrava una grande familiarità con i modi di fare dei. Come studioso ben preparato, conosceva molti dei brani più noti delle opere classiche e di autori. Possedeva inoltre una visione generale della situazione mondiale e poteva dire «mi faccio ogni». Questa cittadinanza concedeva molti vantaggi, tra i quali il diritto di essere debitamente processati, prima di essere condannati o puniti, il diritto di appellarsi a Cesare per ottenere giustizia, Atti 25:1. In caso di condanna a morte aveva il diritto di scegliere la decapitazione al posto della. Ha scritto 13 lettere, alcuni pensano che abbia scritto anche quella degli ebrei. L'apostolo Paolo non sembra avere mai avuto l'intenzione di scrivere opere letterarie propriamente dette, ma egli sentì il desiderio e la necessità di tenersi in rapporto intimo con i fedeli delle chiese, da lui fondate o visitate, e di continuare il suo ministero di istruzione e di esortazione cristiana. Per quanto riguarda gli avvenimenti precedenti la sua conversione, si veda Atti 22, 3 a 5, 26, 4 a 5. Per gli avvenimenti che immediatamente lo seguirono, si veda Atti 9, 19, 30, 22 di 1 e 21, seconda cor, 12, 2 a 3. Il soggiorno ad Antiochia è compreso in questo periodo Atti 11, 25, 26. Anno 46, visita a Gerusalemme. Atti 11, 27, 30, mezzogiorno e 25, Gal, 2, 1, 10. Anno 47, primo viaggio missionario. Antiochia, Cipro, Antiochia di Pisidia e Iconio, Listra e Derba. Anno 50, Paolo visita Gerusalemme ed è presente al concilio ivi tenuto. Atti 15, 1, 35. Anno 51, secondo viaggio missionario. Antiochia, Cilicia, Galazia del Sud, Troas, Filippi. Anno 53. Ritorno via Efeso e Cesarea, a Gerusalemme e di nuovo ad Antiochia. Atti 18, 18-22. Terzo viaggio missionario. Antiochia, Frigia, Galazia fino ad Efeso. Atti 18, 23-24. Anno dal 53 al 56 rimane ad Efeso. Atti 19, 1-21. Scrive le sue epistole ai Corinti. Anno dal 56 al 57. Continuazione del terzo viaggio. Macedonia, Grecia, Corinto, Filippi, Mileto. Convegno con gli anziani di Efeso, Tiro, Tolemaide, Cesarea, Gerusalemme. Atti 21, 21 e 17. Da anno dal 57 al 59. Arresto a Gerusalemme. Prigionia di 2 anni a Cesarea. Anno dal 59 al 60. Viaggio a Creta, Malta, Reggio C. Roma, Atti 27. Anno dal 60 al 62 permanenza a Roma in attesa del processo, sotto la sorveglianza di una guardia. Atti 28. Scrive ai Colossesi, a Filemone, agli Efesini e ai Filippesi. Anno dal 62 al 65. Forse Paolo viene liberato e rivisita le chiese, scrive la prima epistola a Timoteo. Anno 66 o 67, imprigionamento a Roma. Scrive la seconda epistola a Timoteo poco prima della sua morte. Alcuni pensano che Paolo sia andato anche in Spagna, Romani 15 e 24. Antiochia 13, 1, il Signore chiama al suo servizio Barnaba e Paolo. Salamina 13, 5, Paolo e Barnaba annunciano la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei, con loro. Pafo 13. 6. Il falso profeta Elima viene accettato mentre il proconsole Sergio Paolo crede. Vers 12. Praga di Panfilia 13 e 13. Marco si separa e ritorna a Gerusalemme. Antiochia di Pisidia 13 e 14. Paolo entra nella sinagoga di sabato. I giudei respingono la buona. Iconio 13 e 51. Gran moltitudine di giudei e gentili crede. Ma scoppiato un moto, fuggono nella Listra 14. 8 Paolo guarisce uno zoppo. In seguito viene lapidato e creduto morto. I discepoli lo derba 14 e 20. Paolo e Barnaba evangelizzano ottenendo molti discepoli. Pio ritornano indietro, confermando gli animi dei discepoli delle chiese visitate in precedenza. Antiochia 14 e 26 Paolo e Barnaba riferiscono alla chiesa tutte le cose che Dio aveva fatte per mezzo. Antiochia 15 e 36 Paolo separatosi da Barnaba prende per compagno Sila. Derba 16. 1 Paolo incontra un discepolo di nome Timoteo e ne fa un suo compagno di viaggio. Misia 16. 7. Ai confini di questa regione lo spirito di Gesù non permette a Paolo di andare in Bitinia. Troas, a questo punto sembra che Luca si sia imbarcato con Paolo. Filippi 16 e 12. La conversione di Lidia. Paolo caccia uno spirito indovino in una serva. Per questo atto Paolo e Sila vengono incarcerati e battuti. Terremoto e conversione del carceriere. Tessalonica 17. 1. Per la predicazione di Paolo molti si convertono, ma i giudei, mosso un tumulto, pendono Giasone ed alcuni fratelli anziani, i quali avevano accolto Paolo e Sila e non li lasciarono. Berea 17 e 10. A parola di Dio viene esaminata più accettata. I giudei di Tessalonica muovono un tumulto. I fratelli conducono Paolo fino al mare mentre Sila e Timoteo rimangono a Berea. Atene 17:10 Paolo, condotto nell'Areopago, annuncia la buona novella. Alcuni se ne beffano, altri sì. Corinto 18:1 Paolo incontra Aquila e Priscilla. Arrivano dalla Macedonia Timoteo e Sila. Paolo predica efficacemente per un anno e sei mesi. Fra le conversioni i capi della sinagoga Crispo e Efeso 18:19 Paolo parla ai giudei non acconsentendo di rimanere molto. Riparte lasciando Priscilla, Galazia e Frigia 18:23. In queste regioni Paolo conferma i discepoli. Efeso 19:1 Per l'indurimento di alcuni Paolo si separa con i discepoli discorrendo con loro nella scuola di Tiranno per lo spazio di due anni. Il Dio per le mani di Paolo fa potenti miracoli. Alcuni degli esorcisti giudei volendo imitare vengono confusi. Demetrio, un orefice, muove un tumulto. Grecia 22. In questa regione Paolo si ferma tre mesi. Nel tornare in Macedonia viene accompagnato da alcuni fratelli, i quali poi andarono innanzi aspettandolo a Troas. Troas 20. Sei Paolo vi dimora per sette giorni. L'incidente di Eutico. Asso 20:13. Qui Paolo incontra coloro che lo avevano preceduto. Mileto 20:15. Paolo fa chiamare gli anziani di Efeso, raccomandandoli a Dio. Tolemaide 21:7 Paolo dimora con i fratelli locali per un giorno. Cesarea 21:8 Paolo entra in casa di Filippo l'Evangelista. Un profeta di nome Agabo profetizza della Gerusalemme 21:15 Paolo alberga in casa di Masone di Cipro. Alcuni giorni dopo i soldati romani salvano Paolo dal linciaggio da parte dei giudei. Avendo rinnovato il loro complotto, il tribuno è costretto a mandare Paolo dal governatore Felice. Cesarea 23:33. Felice, per accontentare i giudei, lascia Paolo in prigione. A lui succede Porcio Festo. Agrippa e Berenice vengono a trovare Festo, i quali ascoltano Paolo giudicandolo innocente. Ma Cesarea 27:1 Paolo viene consegnato ad un centurione di nome Giulio. Sidone 27:3 Giulio permette a Paolo di andare a trovare i suoi amici. Bei porti 27:8 Paolo predica il pericolo che avrebbe corso la nave e l'equipaggio. Claudia 27:1-6 La nave viene portata da un vento turbinoso e passa rapidamente vicino a quest'isola. Malta 28:1 La nave si sfascia, l'equipaggio è costretto ad andare a terra. Paolo viene morso da una vipera e non muore. Miracoli di Paolo, fra i quali padre di Publio. Tre mesi dopo sale su una nave. Pozzuoli, 28:13. Avendo trovato dei fratelli, Paolo si ferma una settimana. Roma 28:14. Paolo viene accolto dai fratelli, mentre i prigionieri vengono consegnati al prefetto del pretorio, a Paolo viene concesso di abitare da solo con il soldato che lo custodiva. Con questa libertà Paolo testimonia dell'Evangelo a chiunque viene a trovarlo. Autore E. Chiaro che lo scrittore del terzo Evangelo è anche autore di questo libro CFR Atti 1:1 con Luca 1:1-4. Lo scrittore usa termini medici, il che dimostra che è un dottore. Questo ci fa propendere assai verso il medico diletto, che probabilmente nasconde la sua identità sotto il pronome di noi. Atti 16:10. L'autore di questo libro era con Paolo a Roma, 28:16. Troviamo la stessa notizia nei riguardi di Luca, 2:100 circonflesso Tim, 4:11. Vi possono essere ben pochi dubbi intorno al fatto che Luca ne sia l'autore. Lo scopo degli atti non è di raccogliere le azioni memorabili dei 12 apostoli, nemmeno di tessere la biografia dei due primista Pietro e Paolo, ma di descrivere la diffusione dell'Evangelo dalle sue origini sino all'estremità della terra. Inoltre si propone di mostrare il Signore resuscitato nel cielo e l'atto di continuare l'opera che aveva iniziato sulla terra. Data e luogo. Le opinioni sono diverse, chi pensa verso il 69 e chi verso l'80. Per il luogo o Roma, o Antiochia, o Efeso. Varie questo libro del Nuovo Testamento o viene chiamato Atti degli Apostoli, ma tratta principalmente gli atti di Pietro e di Paolo, soprattutto Paolo, che fu l'apostolo dei Gentili. Pensato suggerito gli Atti dello Spirito Santo come un titolo più adatto, infatti si trovano circa 70. Il libro degli Atti è un supplemento degli Evangeli, esso mostra come le chiavi del Regno dei Cieli, date a Pietro, Matt 16 e 19, furono da lui usate per ammettere nella Chiesa i giudei, Atti 2 e D. La profezia riguardante la Chiesa, Matt 16 e 18, viene adempiuta nel libro degli Atti. Il mandato contenuto in Matteo 28, 19 e 20 e Luca 24, 46 e 57 viene messo ad effetto negli Atti. Sembra fatto incredibile che dopo avere dedicato tanto spirito di narrazione dell'imprigionamento di Paolo, Luca abbia ammesso di parlare del risultato del processo, ma come disse a Sabatier, il libro è ben finito, il piano che l'autore si era proposto è ben compiuto. Lettera ai Romani, autore lettera della... L'autore è, probabile che sia stata portata 3 anni prima della sua venuta a Roma, dalla diaconessa Febe di Cencrea, dovendo recarsi da quelle parti. 16, 1 a 2. Destinataria indirizzata ai credenti di Roma, rivolgendosi ai santi individualmente sia giudei che scopo. Questa lettera esprime il desiderio di Paolo di vedere i credenti di Roma e di comunicare loro qualche dono spirituale. Alcuni hanno pensato che lo scopo di Paolo nello scrivere fosse polemico perché voleva. Altri pensano che il suo intento fosse apologetico, cioè che intendesse spiegare interamente il messaggio, ed in tal modo sfatare varie dicerie sul suo ministero. Altri ancora sono dell'opinione che questa lettera sia puramente dogmatica, essendoci una elaborata esposizione della dottrina che gli era stata affidata affinché insegnasse. Data e luogo fu scritta da Corinto in casa di Gaio, un ricco Corinto nel suo terzo viaggio missionario, 1 a 100 circonflesso Cor, 1 e 14, Romani 16 e 23. Si pensa che la data sia tra il 56 e il 59, poco prima di partire per Gerusalemme con l'offerta di denaro per quella chiesa, 15, 25 e 27. L'autenticità non è stata messa in dubbio da nessun critico serio e competente. Bari e la chiesa di Roma si componeva, come la maggior parte delle altre chiese, di elementi. Ma dall'esame dell'epistola si ricava che l'elemento proveniente dal paganesimo era in grande. Alcuni studiosi hanno avanzato l'ipotesi che i capitoli 15, 16 non facessero originariamente parte. Alcuni hanno avanzato l'idea di intitolare l'epistola Il Vangelo secondo S. Paolo, scritta forse da Sostene, CFR 1, 1 con 16 e 21, il quale era probabilmente il capo della sinagoga di Latore, arrivò alla chiesa di Corinto per mano di Stefano Fortunato e Acaio, 16, 179, o forse destinatari. Sebbene originariamente sia stata scritta per la chiesa di Corinto, è diretta a tutti quelli che in ogni tempo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro, e loro 1, 2. Scopo nella grande città di Corinto, la differenza di origine e di temperamento nei singoli membri della chiesa misero in pericolo l'unità. Vennero a formarsi dei gruppi di credenti che rimasero attaccati a Paolo, fondatore della chiesa stessa, chi ad Apollo e parte all'apostolo Pietro 1, 2. Venuto a conoscenza di ciò, tramite qualcuno della casa di Cloè, l'apostolo scrisse questa epistola per far comprendere la signoria di Cristo 1,5 e per spiegare le varie domande che i credenti avevano fatto sul celibato, sulla Santa Cena, sul decoro religioso, sulla resurrezione futura. Data e luogo scritta fra il 55 e il 57 da Efeso, nel suo terzo viaggio missionario. La città di Corinto è stata chiamata la fiera della vanità dell'impero romano, era la capitale dell'Entia. Acaia, Grecia. Fu fondata da Giulio Cesare nel 46 AC e si trova sullo stretto fra il mare Egeo e lo Ionio. Ai tempi di Paolo contava circa 7.000, di cui 4.000 5.000esimi schiavi. Inoltre era una grande città commerciale. Esso vantava uno dei più grandi templi del suo tempo dedicato ad Afrodite. La religione corrotta influiva terribilmente sulla moralità della città, ciò spiega la ragione per cui, nel mezzo di Corinto, con tutta la sua lussuria, la sua ricchezza, la sua cultura ed i suoi vizi, venne l'apostolo Paolo, e dopo 18 mesi di fatiche sorse una chiesa che fu subito numerosa e composta. Autore lettera che l'apostolo Paolo scrisse a pochi mesi dalla prima, 13 e 10. Scopo costretto a lasciare Efeso, dove aveva corso pericolo della vita, 2 circonflesso Corinzi, 1:8-10, Paolo si reca a Troas, 2:12, sperando di trovarvi Tito, latore di notizie da Corinto. Non trovandolo si affrettò ad andare in Macedonia, 2:13, dove incontrato Tito apprese da lui notizie, intorno al modo con cui i Corinzi avevano accolto la sua prima lettera. Egli provò piacere nell'apprendere quale accoglienza era stata fatta e come la Chiesa si era. Egli scrisse così la sua seconda lettera per esprimere, ma Tito aveva riferito di un'altra difficoltà che era sorta nella Chiesa di Corinto nella quale si disprezzavano Paolo e il suo ministerio. I capitoli 10-13 sono pieni della lotta di Paolo contro coloro che si opponevano all'Evangelo da lui. Sembra che in questo punto Paolo avesse riportato successo, poiché Clemente di Roma, 40 anni più tardi, poteva parlare della fermezza della Chiesa di Corinto nella conoscenza. Data e luogo scritta dalla Macedonia o da Filippi verso l'autunno del 57 o del 58. Vari, e questa è una delle lettere più. In esse troviamo dei particolari della sua vita, che non si riscontrano in nessun altro luogo. In nessun'altra lettera egli parla così liberamente di sé. Infatti questa lettera è una specie di autobiografia. Alcune cose che egli rivela della sua storia personale non sono neppure rivelate barra rilevate dal suo compagno Luca, ed egli vi accenna umilmente e modestamente per destinatari le chiese della Galazia, 1:2. Dove si trovasse con precisione questo gruppo di chiese, non è facile dirlo. Alcuni pensano che la Galazia di questa epistola sia la Galazia nordica, che abbracciava le città di Tavio, Pessino, Ancira e forse qualche altra, dove sarebbero esistite delle questima. Altri invece credono che si tratti della provincia romana, che si chiamava Galazia, e abbracciava la Licoania, la Pisidia, una parte della Frigia, e quindi le chiese di Derba, di Listra, di Iconio, di Antiochia, di Pisidia. La popolazione di codeste regioni era designata con tre nomi, Celti, Galati, Galli, ed era un miscuglio di Frigi, di Greci, di Romani, di Galli, di Giudei. Scopo Paolo scrisse questa lettera dopo che ebbe avuto sentore del male che i giudaizzanti avevano provocato in Galazia. Costoro affermavano che a meno che il credente non avesse osservato il rito della circoncisione, non avrebbe potuto essere salvato. In questa lettera l'apostolo si prefigge di dimostrare che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma lo è soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Un altro scopo era quello di dimostrare che il ministero gli era stato affidato dal Signore Cristo. Gesù in persona, 1:11-12, non gli era stato comunicato da nessun altro. Gli altri avevano soltanto contribuito al suo messaggio e al suo ministero. 1:16-2:10. Data e luogo, la data dell'epistola è incerta. C. E chi pensa sia stata scritta prima del Concilio di Gerusalemme, anno 50, da Antiochia, dove era trattato questo argomento. Altri la portano al 57, mentre era a Efeso, o in Macedonia, o a Corinto, poco prima di scrivere l'epistola ai Romani. Si può dire che ogni frase di questa epistola reca la firma morale dell'apostolo. La sua impronta personale è netta e marcata. Era ammessa universalmente come di Paolo fin dal II-III secolo. L'autore è unanime l'opinione che sia stata portata da Tichico, 6:21. Destinatari è probabile che questa lettera non sia scritta solo alla chiesa di Efeso, perché il nome di Efeso nell'originale è omesso, per cui si pensa sia stata scritta alle diverse chiese dell'interno. Scopo, a differenza delle altre epistole che avevano lo scopo di correzione di controversia, nessuna circostanza speciale determina l'invio dell'epistola agli Efesini. Essa è di carattere generico ed è rivolta a tutte le chiese dell'Asia per spiegare l'armonia della Chiesa di Cristo, i principi eterni della sua vita, la sua unità di molti membri. Data e luogo scritta nel 63. Autenticità è singolare che questa epistola, che possiede le migliori garanzie nella tradizione ecclesiastica, abbia finito per essere la più contestata, se si escludono le epistole pastorali. Dato che gli argomenti avanzati contro l'autenticità sono tutti in genere troppo soggettivi, è probabile che, come è avvenuto per altre epistole, anche per questa agli Efesini, la critica non tardi a. La città di Efeso a Efeso era unita al mare per mezzo di un canale navigabile, ed era famosa per il Tempio di Diana, Atti 19:27, e per il suo teatro, un grado cor, 15:32. Era la capitale della provincia dell'Asia Minore ed il centro dell'amministrazione romana. Era una città popolosa, prospera e notevole, sotto molti punti di vista. Per la costruzione del Tempio di Diana furono impiegati 2 secoli. Era una delle meraviglie. Varie, vi è una relazione stretta tra questa epistola e quella ai Colossesi. Il dot. Scrogge fa notare che dei 155 versetti dell'Epistola agli Efesini, 78 contengono espressioni. L'Epistola agli Efesini contiene le virtù più profonde che siano rivelate nel Nuovo Testamento, o. L'Epistola ai Romani si propone di spiegare l'Evangelo, quella degli Efesini, invece, vuole manifestare il mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose. Questo mistero, di cui si parla anche altrove, è la Chiesa. Scopo Epafrodito aveva portato a Paolo un dono di Filippi. Frattanto, dopo una grave malattia, Epafrodito si era ristabilito e gli premeva di tornare a casa per assicurare i fratelli di Filippi. 2:26. L'Apostolo Paolo colse l'occasione per inviare questa lettera di ringraziamento ai suoi amati. Data e luogo. Le espressioni pretorio 1:13 e casa di Cesare 4:22 bastano per essere certi che egli si trovasse a Roma, molto probabilmente prigioniero 1:7. La data è tra il 62 e il 63. Autenticità. L'autenticità è riconosciuta dalla grandissima maggioranza dei critici. La città di Filippi prese il nome dal re macedone Filippo, padre di Alessandro Magno, il quale, verso la metà del IV secolo AC, la volle ricostruire e fortificare. Prima si chiamava Crenide, cioè le fontane a motivo dei numerosi corsi d'acqua che fertilizzavano la. Nel 169 AC, Filippi era passata sotto il dominio di Roma e rimase poi famosa nella storia romana per la vittoria riportata sotto le sue mura nell'anno 42 AC da Ottavio ed Antonio contro Bruto e Cassio, vittoria che spense l'ultima speranza di restaurare la Repubblica. Filippi, oltre ai privilegi comuni di ogni colonia, era esente dal pagare quel tributo che Roma. La gente era orgogliosa del diritto di cittadinanza romana, Atti 16:20-21. Per Filippi passava la famosa arteria commerciale Via Ignazia, che univa l'est con l'ovest. Il tema di questa epistola è che la vita cristiana non è fatta solo di onestà e irreprensibilità, ma soprattutto di sacrificio. Questa lettera, come fu detto, è la più epistolare di tutte le epistole di Paolo. Non è il teologo che insegna, ma il credente che lascia parlare le sue esperienze più intime. Siccome questa fu l'ultima lettera scritta dall'Apostolo Paolo ad una chiesa, viene di solito chiamata il suo ultimo canto del cigno, canto dolcissimo e commovente. Autore l'Apostolo Paolo. L'affermazione che si trova in 4:18 fa pensare che l'abbia scritta egli. Scopo occasione della lettera fu Epafra, essendo andato a Roma a visitare Paolo prigioniero. Egli manifestò nuovi pericoli che minacciavano le chiese dell'Asia, particolarmente a Colosse. I pericoli venivano dai falsi dottori giudaizzanti e già iniziatori del gnosticismo, i quali si rassegnavano a qualche pratica giudaica, perché ormai i cristiani avevano compreso la superiorità. Ma menomavano la dignità di Cristo, che sostituivano con gli angeli dei quali credevano avere una conoscenza particolare. Autenticità essa è stata fieramente attaccata nel secolo XIX gradi, ma oggi le cose sono cambiate talché molti critici contemporanei, assolutamente indipendenti, ritengono che non vi siano ragioni serie per dubitare della sua autenticità. La città di Colosse bagnata, un villaggio chiamato Chonos, era situata sull'arteria di grande traffico commerciale che univa l'Oriente con l'Occidente. Dal capitolo 2:1 sembra che Paolo non avesse visitato Colosse. Si pensa che Epafra e Archippo abbiano udito Paolo ad Efeso 1:7-4:17 ed abbiano portato l'Evangelo nella loro città natale, ottenendo come risultato della loro predicazione la formazione di un'assemblea di fedeli. Questi credenti tenevano varie. Tutto l'insegnamento della lettera ai Colossesi può racchiudersi nell'affermazione dei versetti 2:9-10. In Frigia fioriva il culto di Cibele, la madre degli dei, la quale aveva il suo santuario principale a Ierapoli. E qui che sorse la setta del montanismo nel secondo secolo, e nel quarto si estese il culto degli angeli che nel nono e nel decimo secolo l'arcangelo Michele era adorato come santo patrono. Scopo Timoteo era stato mandato ad Atene per rafforzare e confortare i tessalonicesi che sopportavano non poche persecuzioni per amore della verità. 1, 6, 2 e 14. Il rapporto di Timoteo a Paolo che si trovava a Corinto diede occasione a questa epistola. Esso era assai favorevole nel suo insieme, ma alcuni difetti non potevano mancare. Per mezzo di questa lettera Paolo cerca di correggerli, perché alcuni si erano lasciati tanto assorbire nel pensiero. Altri piangevano per la morte dei loro cari, pensando che non avrebbero partecipato con la loro morte alla gloria del regno. Vengono perciò corretti nel loro errore per mezzo della rivelazione. Autenticità. È citata come di Paolo da Ireneo in poi. La città di Tessalonica fu chiamata così da Cassandro re di Macedonia, in onore della prima moglie. Era la capitale di una delle quattro divisioni della Macedonia, città commerciale, porto frequentatissimo. Era un centro di notevole importanza, con magistrati locali. Aveva una popolazione mista di greci indigeni, di coloni romani, di orientali ed ebrei, questi ultimi. Il suo nome originale era Terma, e dai nostri giorni è conosciuta come Salonicco. E, una delle varie nel Nuovo Testamento, si parla più di 300 volte del ritorno del Signore. L'insegnamento centrale di questa epistola tratta della seconda venuta di Cristo per rapire i suoi santi. L'affermazione di 3:17 fa pensare che non sia stata scritta da lui. Scopo molte delle condizioni generali prevalevano nell'assemblea, ma era sorto un nuovo problema intorno al giorno del Signore, e la Chiesa era disturbata da esso. L'idea che il giorno del Signore fosse già venuto si era sparsa a Tessalonica. Questo insegnamento era stato determinato da una cattiva comprensione della prima lettera di Paolo, da una lettera spuria che portava il suo nome, da notizie false per cui si asseriva essere questa l'opinione dello stesso Paolo, o da immaginarie rivelazioni dello Spirito 2:1-2. La prima epistola aveva lo scopo di confortare, la seconda coeodi data e luogo fu scritta dopo pochi mesi dalla prima, all'inizio del 53 da Corinto. Autenticità. Viene citata da Policarpo e da Giustino Martire, tuttavia è stata oggetto di grosse contestazioni a motivo del suo contenuto, in particolare la questione escatologica e la stretta somiglianza con la prima lettera. Combattuta da critici di valore, è però difesa efficacemente da varie. Questa epistola tratta principalmente la profezia della venuta di Cristo con i suoi santi. Per le due epistole a Timoteo e l'epistola a Tito sono indissolubilmente unite e formano il gruppo delle lettere pastorali. Tutte e tre hanno uno scopo comune: assicurare l'avvenire della Chiesa sulla terra, sotto la direzione di quelli che dovevano istruirla ed amministrarla dopo la dipartenza degli destinatari a Timoteo. Era nato in Licaonia, a Listra, Atti 16:1-3. Ricevette un nome, Timoteo, che era abbastanza comune in greco, ma che per il suo significato, uno che onora Dio, doveva riuscire gradito ad una israelita credente. Il padre era greco e pagano, Atti 16:1, la madre Eunice era giudea convertita, donna di singolare pietà come la nonna Loide, 2 gradi Tim, 1:5. Da essa fu, dall'infanzia, istruito nelle sacre scritture del Timqua, Antico Testamento, 2 gradi Tim, 3:15, ma non era stato circonciso. Timoteo doveva essere fisicamente delicato, 1 grado Tim, 5:23, molto sensibile ed affettuoso, 2 gradi Tim, 1:4, timido, 1 grado Corinzi 1:10, alieno all'affermarsi con autorità, forse anche per la sua giovane età, 1 grado Tim, 4:12, e 2 gradi Tim, 2:22. Sentire il bisogno di essere incoraggiato, e l'apostolo Paolo nutriva per lui un affetto speciale e lo chiamava figliolo suo genuino, diletto, eccetera. Fu posto capo della chiesa di Efeso quando probabilmente era ancora giovanissimo, 34-35 anni. Scopo la lettera ha un duplice aspetto. Il primo sottolinea la persona di Timoteo, il quale ha diverse responsabilità come ministro del Signore e come esempio della Chiesa, particolarmente illustrato nei passi 1, da 3 a 7, da 18 a 20, 4 da 6 a 16, 5, 1. L'altro sottolinea i doveri che Timoteo deve compiere nella Chiesa, avere cura che essa aia, particolarmente illustrato nei capitoli 2, 3, 5 e nel 6 da 1 a 10. Data e luogo C, è chi pensa alla Macedonia, chi dall'Asia Minore, chi da Corinto, nel 64 o 65. Autenticità. La Chiesa antica attribuì sempre tutte e tre le pastorali a Paolo. Varie, il tema di questa epistola sembra concentrato tutto nelle parole affinché tu sappia come. Bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la Chiesa degli Dio vivente, colonna e sostegno della verità, 3 e un quarto. Destinatario Timoteo. Quando Paolo passò per Listra, durante il primo viaggio missionario, il giovane Timoteo abbracciò il cristianesimo e fu probabilmente testimone della persecuzione che l'apostolo ebbe a soffrire. 2 a 100 circonflesso Tim. 3 e 10 confrontati 14, 19 e 22. All'epoca del secondo viaggio missionario Paolo lo troviamo a Roma con Paolo poco prima della morte dell'apostolo. E l'ultimo particolare che sappiamo sul suo conto è l'intenzione che aveva l'apostolo di mandarlo a Filippi. Filem 2, 19 e 24. Scopo l'apostolo incoraggia il giovane collaboratore a rimanere fermo nella verità in mezzo. Data e luogo scritta da Roma quando era in prigione, prima di morire nel 67. 4, 6. Varie. La seconda epistola a Timoteo ci presenta Paolo in carcere a Roma già da qualche tempo. 1, 8, 2, 9. Ha viaggiato attraverso l'Asia Minore, lasciando a Troas il mantello a casa di Carpo. 4 e 13. È passato per Mileto, dove è rimasto Trofimo infermo, 4 e 20, e forse anche a Corinto, dove si è stato abbandonato da Dema che senne, è andato a Tessalonica, 4 e 10. Crescente S. è recato in Galazia, Tito in Dalmazia, 4 e 10. Ha mandato Tichico ad Efeso, 4 e 12, cosicché rimase solo con Luca, 4 e 11. Nella sua prima difesa ai giudici nessuno si è trovato al suo fianco, ma tutti l'hanno abbandonato, 4 e 16. Il martirio è ormai prossimo. Ripetutamente prega Timoteo di venire prima dell'inverno, 4, 9 e 21, portandogli col mantello i libri e le pergamene, 4 e 13, e conducendo seco. Tutto quello che si sa di Tito è in questa epistola, in quella dei Galati, ed in 2 a 100 circonflesso Corinzi, nel libro degli Atti, il suo nome non è menzionato. La sua patria ci è sconosciuta, leggende posteriori vorrebbero Creta, Crisostomo parla di Corinto, in sostanza non si sa nulla. L'unica certezza è che Tito era pagano, Gal 11:3, convertitosi probabilmente attraverso Paolo, Tito 1:4, che lo condusse. Secco ad Antiochia alla conferenza di Gerusalemme e si oppose alla sua circoncisione, Gal 2, 1 a 5. In occasione degli incidenti di Corinto, Tito vi si recò due o più volte, come risulta da 2 a 100 circonflesso Corinzi. Se si paragona Tito 2 e un quarto con 1 a 100 circonflesso Tim 4 e 12, si potrebbe pensare che Tito fosse più avanzato negli anni di Timoteo, forse perché egli era non solo più anziano ma anche più energico di carattere. Così si spiegherebbe perché Paolo preferiva mandarlo a Corinto nei momenti difficili che quella chiesa attraversava, piuttosto che mandare Timoteo, 2 a 100 circonflesso Cor, 7 e un quarto CFR 1 a 100 circonflesso Cor, 16 e 10. Scopo appare chiaro che la visita fatta da Paolo a Creta deve essere stata breve, sicché Tito è rimasto sull'isola per consolidare il lavoro ed estenderlo, 1, 5. La lettera fu scritta subito dopo la partenza di Paolo con lo scopo di dare credito ed istruzioni a Tito per l'organizzazione della vita di Chiesa a Creta, con particolare riferimento alle difficoltà speciali inerenti alla situazione del dato e luogo. Si suppone che sia stata scritta dalla Macedonia o dall'Asia Minore nel 64 o nel 65. Destinatario, la lettera è indirizzata anche a nome di Timoteo e da Filemone Appfia sua moglie e da Crippo, Forse loro figlio questa famiglia risiedeva con ogni probabilità a Colosse. Filemone fu convertito al Vangelo per mezzo di Paolo, possedeva una casa dove riceveva degli amici, versetto 22, e la sua scopo. Avendo Onesimo, schiavo di Filemone, rubato del denaro al suo padrone, fuggì a Roma, pensando che essendo questa città un gran centro gli sarebbe stato facile nascondersi. A Roma venne in contatto con l'apostolo Paolo, che lo convertì al cristianesimo e da tornare dal Paolo, scrisse questa lettera di suo pugno, versetto 19, per intercedere a favore di Onesimo affinché fosse perdonato e fosse accolto come un fratello da Filemone e la sua famiglia. Inoltre Paolo si offriva di autenticità. L'autenticità di questo biglietto immortale non è... Costoro non avevano nessuna influenza e nessun diritto civile. Uno schiavo era a completa disposizione del suo padrone. Per le più piccole offese poteva essere frustato, mutilato, crocifisso o gettato alle belve feroci. E la maggior parte di questa popolazione era tenuta a bada solamente per mezzo del timore. Nei primi secoli Tertulliano l'attribuì a Barnaba, mentre Girolamo disse che fu scritta in ebraico «dassi Paolo» e tradotta in greco «dassi Luca» o «dassi Clemente». Solo nel IV secolo fu attribuita a Paolo. Destinatari. I destinatari erano dei giudei che avevano professato già da tempo di essersi convertiti al cristianesimo. 5:12. Scopo era quello di dimostrare ai giudei tremanti e preoccupati che il giudaismo aveva soltanto un valore simbolico e che non era destinato a rimanere per sempre. Data e luogo essa fu scritta senz'altro prima della distruzione di Gerusalemme che avvenne nel 70. Perché l'autore tratta ancora il rituale dell'antico patto. Probabilmente prima del 65, cioè prima della persecuzione di Nerone, perché l'autore non avrebbe detto «voi non avete ancora resistito fino al sangue». 12:4. Fu scritta dall'Italia, 13:24, ma se si interpreta «quelli che sono venuti dall'Italia vi salutano» è tema. La tesi che lo scrittore svolge è la superiorità del cristianesimo sul giudaismo. La parola chiave può essere meglio o migliore, che ritorna 13 volte. Es, un patto migliore, promesse. Autore nel Nuovo Testamento troviamo tre differenti persone chiamate così. Giacomo, fratello di Giovanni, figlio di Zebedeo, il quale fu decapitato da Erode Agrippa un grado nell'anno 44, Atti 12, 1, Giacomo di Alfeo, soprannominato il piccolo uno dei 12 discepoli, e Giacomo uno dei fratelli di Gesù. Marco 6:3. Tradizionalmente si attribuisce questa epistola a Giacomo, fratello di Gesù, anche se è stata poco conosciuta nei primi due secoli, e fu ammessa nel canone dopo lunghe discussioni perché dava l'impressione di contraddire la dottrina della giustificazione per fede predicata dall'apostolo Paolo. Ma già ai tempi di Grigene se ne parlava come di Giacomo, e più tardi fu opinione generale che i dati interni confermano questa opinione tradizionale, cioè che l'autore doveva essere stato in relazione personale con Gesù ed avere udito il suo insegnamento poiché ricorda molti suoi detti. Giacomo, fratello di Gesù e pastore della chiesa di Gerusalemme, era rispettato anche nell'ambiente. Egli morì martire per opera del sommo sacerdote Anano, il quale, secondo Giuseppe Flavio, subito dopo la morte del procuratore Festo e prima dell'arrivo del suo successore Albino, verso il 62 fece condannare dal Sinedrio Giacomo ed alcuni altri alla lapidazione. Destinatari i giudei fuori della Palestina e specialmente i giudei cristiani. 1:1. Data e luogo W. Graham Scroggia afferma che senza dubbio il luogo in cui fu scritta fu Gerusalemme. Inoltre, da alcuni fatti possiamo dedurre che quest'epistola fu scritta prima del Concilio di Gerusalemme nell'anno 50, cioè fra il 45 e il 50. Questo ne fa la più antica lettera del Nuovo Testamento. Varie. L'epistola di Giacomo è un'epistola di azione, è brusca nel suo stile e passa rapidamente da un soggetto all'altro, ed è nota per l'apparente insegnamento di Paolo, confronta Romani 5:1 con... Si noti che anche Paolo esorta i suoi lettori a buone opere, Romani, Gal 5:18-23, Tito 2:7. Considerandole però come frutto, è esattamente la stessa cosa che dice Giacomo. C. È chi pensa che, nella lista degli apostoli del nostro S.G. Cristo, Pietro è invariabilmente nominato per primo. Apparentemente era il più in vista nel gruppo degli apostoli. Certamente fu preminente in varie occasioni. Durante il ministerio del Signore nel giorno della Pentecoste, Atti 2. Come Paolo è chiamato l'apostolo della fede e Giovanni l'apostolo dell'amore, così Pietro viene. In tutto, il nome di Pietro è ricordato 210 volte nell'NT, mentre quello di Paolo ricorre 62 volte. Gli altri apostoli sono nominati nell'insieme non più di 142 volte. Un grande schema della vita e dell'opera di Pietro si può tracciare come segue. Luca 5, 1-11 riporta in maniera completa il racconto della sua chiamata. Giovanni 13, 6-9 tramanda l'episodio in cui il Signore gli lavò i piedi. Matteo 20, 6 elenca i fatti che condussero al grande rinnegamento. Giovanni capitolo 21 contiene le ultime parole che il Maestro gli disse prima di ascendere al cielo. Nel libro degli Atti è la figura principale dei primi 12 capitoli. Altri frammenti della sua vita. Destinatari: i giudei cristiani dispersi che vivevano nelle province dell'Asia Minore. 1:1. Scopo: lo scopo principale di questa lettera è quello di rendere saldi coloro che devono passare. Data e luogo fu scritta probabilmente da Babilonia. 5:13. Riguardo al nome della città, i critici non sono d'accordo. Alcuni pensano sia la Babilonia sull'Eufrate che, benché distrutta, si pensa che vi siano stati dei giudei ove Pietro era andato a trovare, essendo il suo ministero diretto ai circoncisi. Gal. 2, 9. Altri pensano la Babilonia sul Nilo, oggi vecchia Cairo, una terza parte invece pensa sia Roma. Il perché Pietro usasse Babilonia invece di Roma è spiegabile per il fatto che in quei tempi vi era la persecuzione da parte di Nerone, e i cristiani dovevano essere accorti nel parlare chiamando Roma con nomi comprensibili nel loro ambito, ma che un estraneo non potesse intendere. Inoltre, Roma è chiamata la Babilonia, Apocalisse 17, 5-18. Tema: Cristo è per il cristiano l'esempio per ottenere la vittoria sulla sofferenza. Autenticità. L'antichità ecclesiastica è unanime nel dichiarare autentica questa lettera. Destinatari: a chi l'epistola fosse diretta non si può precisare. Il passo 3.1 sembrerebbe accennare. Scopo tema: lo scopo di questa epistola è quello di mettere in guardia i credenti contro i falsi dottori e le loro dottrine corrotte e corruttrici. 3:17-18. Per questa ragione, le sofferenze del Signore non sono nominate nella seconda lettera. La prima era stata scritta per consolare, la seconda per ammonire. Nella prima si parla molto dell'autenticità. Questa lettera, fino al Concilio di Cartagine, anno 397, non era ammessa nel canone. L'epistola non è anonima, porta la firma Simon Pietro, servitore d'apostolo di Gesù Cristo. E alla firma fanno seguito delle allusioni personali, 1:14-16-18, le quali dimostrano chiaramente che Simon Pietro di cui si parla qui è veramente l'apostolo ben conosciuto nella storia evangelica. Nonostante tutto questo, l'epistola è molto discussa riguardo all'autore, all'autenticità e al diritto dell'autore. Questa lettera non riporta il nome dell'autore, ma per le idee che contiene, per la fraseologia, per il vocabolario, per lo stile, per lo spirito, è attribuita senza discordia all'apostolo Giovanni. Tibribi diene l'apostolo Giovanni, che scrisse un Evangelo, tre lettere e l'Apocalisse. Giovanni è generalmente conosciuto come l'apostolo dell'amore, appellativo che gli si conviene perfettamente. Ma dobbiamo anche ricordare che Giovanni e suo fratello Giacomo furono chiamati figli del tuono, Boanerges dal nostro Signore, sentimenti intensi, affetti vivaci. Giovanni era appassionato e franco quando era necessario, mente aperta, tenero cuore, pensieri. Destinatari: questa lettera non è diretta ad una chiesa particolare o ad un gruppo di chiese. Probabilmente, come gli altri scritti apostolici, essa fu scritta tuttavia anche per il bene della Chiesa di Dio per tutti i tempi. I primi lettori, molto probabilmente, erano soprattutto dei gentili. Scopo: le ragioni perché Giovanni scrisse questa epistola sono esposte in 1:4:2:1:13:1:4:2:1:26:5:13. Tema: la vita di comunione con Dio in Cristo porta gioia, vittoria sul peccato e certezza. Autenticità: le tre epistole di Giovanni sono state attribuite durante tutti i secoli all'apostolo. Autore: benché questa lettera non porti il nome e per sua brevità non fosse nota a tutte le chiese, antiche attribuita a Giovanni, poiché dei 13 versetti in cui è stata suddivisa, 8 almeno sostengono. Il termine anziano gli è attribuito, poiché le sue epistole sono state scritte quando gli altri apostoli. Destinatari, essa fu scritta alla signora eletta e ai suoi figlioli 1:1. C. È chi pensa che sia un biglietto personale diretto ad una signora madre di famiglia, chi pensa che sia una chiesa con i figli personali suoi componenti. Lo scopo di questa epistola è quello di mettere in guardia i credenti contro coloro che non destinatari fu indirizzata a D, incredente di nome Gaio. C'era un Gaio a Corinto, 1:14. Un altro viveva in Macedonia, 19:29, ed un terzo a Derba, 24. Se il Gaio a cui scrive Giovanni fosse uno di questi, un altro non si sa, sappiamo che era un credente molto stimato per la sua pietà e generosità nei riguardi dei credenti di passaggio, servitori. Varie. Se la seconda lettera di Giovanni chiude la porta a tutti i falsi dottori, la terza la spalanca ai coloro che ricevono ed incoraggiano i veri servi di Dio sono cooperatori con la verità. Il messaggio di questa epistola è racchiuso nel versetto 2. Diletto non imitare il male ma il bene. Autore, lo scrittore di questa epistola è Giuda, fratello di Giacomo. Nella chiesa del Nuovo Testamento, vi erano due Giuda. Uno era tra i dodici, Luca 6:16, e l'altro era il fratello di Cristo, Matt 13:55. E, opinione generale, che essa sia stata scritta dal fratello del Signore Gesù. Scopo, non vi è dubbio sullo scopo di Giuda nello scrivere questa lettera. I versetti 3 e 4 ne indicano lo scopo, esortare il credente a combattere per la fede ed allertarli contro le religioni infedeli che si insinuavano nella Chiesa. Tema l'argomento della lettera di Giuda è l'apostasia. In breve, in poche parole, dallo schema autenticità. L'epistola è citata da Clemente Alessandrino, Tertulliano e Origene. Era dunque stata accettata generalmente verso la fine del secondo secolo, ma Eusebio la pone fra gli varie. Sebbene brevissima, questa epistola contiene una straordinaria quantità di storie e di dottrina biblica. La Trinità, gli angeli, Satana, il peccato, la salvezza, la seconda venuta di Cristo, In questa epistola vi sono due affermazioni che non si trovano in nessun altro luogo della Bibbia. All'infuori che negli altri scritti, non canonici, del primo secolo, versetto 4:9. Autore l'Apocalisse o rivelazione per vie di visioni è stata scritta da Giovanni, l'apostolo che Gesù. Siccome Giovanni non usa il suo nome sia nel Vangelo che nelle epistole, mentre lo ricorda almeno 4 volte nell'Apocalisse, ha indotto alcuni a pensare che l'autore dell'Apocalisse fosse un altro. Tuttavia già nel secondo secolo Giustino Martire, Ireneo ed altri padri della Chiesa primitiva attribuiscono a Giovanni Apostolo la paternità dell'Apocalisse. Di questo libro è meglio dire che l'autorità è Dio, che dettò attraverso Cristo per mezzo di un angelo. Lo scopo dell'Apocalisse è essenzialmente pratico. La persecuzione che verso la fine del regno di Nerone diventò persecuzione ufficiale, avuto l'esempio dall'alto e prese le mosse della capitale, si scatenò certo con violenza anche nell'Asia Minore, dove si sa che superstizione pagana trionfava. Per questo motivo l'Apostolo scrisse ai credenti dell'Asia Minore, con le quali si trovava specialmente in contatto, perché nella grandora del cimento non venissero meno nell'animo e nella data e luogo, fu scritta a Patmos, 1:9, sotto il regno di Galba, vale a dire fra il 9 giugno del 68, fu la data della morte di Nerone, e il 16 gennaio del 69, che fu la data della morte di Galba. Tema, il libro dell'Apocalisse è basato sul discorso di Cristo circa gli avvenimenti futuri, Matt 24. Questo libro abbonda di espressioni usate da Gesù. Alcune delle sue immagini sembra siano state tratte da Ezechiele e Daniele. Varie, l'ultimo libro del Nuovo Testamento è l'unico libro profetico che si trova in tale raccolta. Esso infatti differisce assai nettamente dagli altri 26 scritti per la forma letteraria sotto cui si presenta. I Vangeli, gli Atti Apostolici e le Epistole appartengono al genere storico ed epistolare.